Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, la flessibilità, di fatto la trattativa tra Unione Europea e i governi nazionali, dunque ovviamente quello italiano, sulle regole, sui confini e sugli elementi da considerare all'interno del bilancio. Come avete sentito, nelle prossime ore dovrebbe uscire lo scambio di missive tra Commissione e il ministro Padoan, che dice Renzi questa mattina ha fatto un lavoro straordinario di mediazione. Il servizio. Si apre uno spiraglio nella trattativa sui conti tra Europa e Italia che sta andando avanti ormai da giorni. La Commissione europea, che domani approverà i giudizi sulle leggi di bilancio degli Stati membri per il 2016 e le raccomandazioni specifiche paese per paese, sarebbe pronta a concedere all'Italia tutta la flessibilità di bilancio richiesta, e cioè uno sconto in bilancio di 0,85 punti percentuali di PIL, pari a circa 13,5 miliardi, di cui lo 0,1 sarà per gli oneri sostenuti sul fronte migranti e sicurezza. Scongiurati gli effetti desiderati come maggiori tasse e manovre correttive, sottolinea Roberto Gualtieri, presidente della Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. Altrimenti, se ci sarebbe dovuta essere minori investimenti o maggiori tasse, più tagli o più tasse, e poi si dovrebbe avere riconoscimento della scelta italiana per il 2017 di avere un deficit all'1,8%, mentre invece sarebbe dovuto essere all'1,1%, e quindi stiamo parlando di un altro 0,7% di PIL, cioè più di 11 miliardi, che altrimenti avrebbero gravato come manovre sugli italiani. La condizione è che l'Italia si impegna a mantenere questo paletto, ma l'apertura non è una deviazione dalle regole. Non è una violazione delle regole, ma ne è un'applicazione integrale delle regole, perché queste regole europee contengono anche appunto la flessibilità. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Francia e Regno Unito stanno mettendo a punto un progetto di risoluzione ONU che permetta alla missione navale europea Sophia di intercettare navi sospettate di trasportare armi in Libia, facendo così rispettare l'embargo ONU in vigore dal 2011, ma anche di addestrare e formare la Guardia Costiera Libica. Così fonti diplomatiche. Intanto di Libia e di Siria si continua a parlare nella due giorni in corso a Vienna. Servizio. A Vienna torna a riunirsi il gruppo di sostegno internazionale alla Siria, guidato da Stati Uniti e Russia. Tre i temi al centro del confronto sui quali l'amministrazione americana insiste per rilanciare i negoziati di pace: un consolidamento del cessate il fuoco, garanzie per l'invio degli aiuti umanitari in tutto il paese e un'accelerazione della transizione politica, un obiettivo quest'ultimo che oggi appare quello più difficile da realizzare nonostante sia previsto anche da una risoluzione dell'ONU. La Francia accusa Russia e Iran di continuare a sostenere dal punto di vista politico, finanziario e militare il regime di Assad, permettendogli così di restare al potere. Bisogna ridare slancio ai negoziati, sostiene anche il ministro degli esteri italiano Gentiloni, ma la riunione si prevede molto più complicata di quella sulla Libia, che si è tenuta ieri sempre a Vienna. Nel paese nordafricano non verranno inviate truppe, ma la coalizione internazionale ha deciso di allentare l'embargo per fornire armi alla guardia presidenziale fedele al governo di al-Sarraj, per meglio contrastare così l'avanzata dell'ISIS, ma anche il traffico di esseri umani. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto, la linea ora va a tutti i convocati, noi ci risentiamo domani alle 14. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.